Letture di Radio 24. Si chiama Beautiful People ed è un sito di appuntamenti per single riservato esclusivamente ai bellissimi. Ma per colpa di un virus, il mese scorso sono stati accettati anche 30.000 brutti, subito espulsi dalla comunità, col loro grande rammarico. Dura la vita dei belli. Trattamenti e diete al limite del masochismo, estenuanti sedute di massaggi e docce solari per conquistare un posto nella cerchia degli eletti. Poi il sistema va in tilt e il sito super esclusivo di appuntamenti per single beautifulpeople.com viene invaso da foto e richieste di amicizia di tipi normali, persino brutti. Come eliminarli? Si sono chiesti i cervelloni della comunità virtuale che conta 700.000 membri di 190 paesi con un unico segno particolare: bellissimi. Con un'email che nel modo più delicato possibile porga le scuse agli sfortunati ammessi per errore e convinti per un breve periodo di essere attraenti. Tutta colpa di un virus che il mese scorso ha fatto saltare le regolari procedure di ammissione ed è stato chiamato Shrek dal mostro verde dell'omonimo film d'animazione che cercava di spiegare come la bellezza vada cercata al di là delle apparenze. Secondo i responsabili di Beautiful People, è stato un ex dipendente arrabbiato a inoculare il veleno, ma società di sicurezza informatica come la britannica Sophos sospettano che si tratti di una trovata pubblicitaria dello stesso sito. Di fatto, in 6 settimane, 30.000 persone sono state accettate a dispetto della loro bruttezza, per essere cancellate ora con la temibile email «Abbatti autostima». «Non potevamo nasconderle sotto il tappeto», spiega l'amministratore delegato Greg Hodge, «e poi un pezzetto di cielo è meglio di niente». Di norma, sono i membri della comunità a valutare le richieste di ammissione in base a foto e informazioni fornite dai candidati su altezza, peso, tipo corporeo, mezzo di locomozione e segno zodiacale. I giudici hanno a disposizione un complicato sistema cromatico di valutazione, rosso-verde. Il verdetto finale è emesso dopo una graticola di 48 ore. Nel gradimento del sito, che respinge in media una richiesta su 7, vanno forte donne svedesi, norvegesi e islandesi, uomini brasiliani e americani. Per l'Italia meglio i maschi, che si piazzano al quarto posto contro l'ottavo delle femmine. L'anno scorso 5.000 membri sono stati radiati per aver messo su qualche chilo durante le vacanze di Natale. I 30.000 traumatizzati hanno a disposizione una linea telefonica di sostegno, servizio a pagamento. Finora la compagnia ha restituito $112.500 ai 4.500 esclusi che avevano superato il periodo gratuito di prova e cominciato a pagare la retta mensile di $25, circa 17 euro. Difficile valutare il danno morale. La tata australiana Rachel, 31 anni, aveva agganciato un americano con il quale stava per incontrarsi. Poi il suo profilo è stato oscurato. Poteva essere quello giusto, dice ora, decisa a ritentare, e se la foto sarà ancora respinta, c'è sempre Photoshop. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Serena Natale, Brutti nel sito per soli belli, l'espulsione dei 30.000, dal Corriere della Sera del 21 giugno. Letture di Radio 24. Libereremo la città dall'immondizia in 5 giorni, tuonava Luigi De Magistris durante la campagna elettorale. Ma il nuovo Masaniello deve fare i conti con un problema che a Napoli esiste da sempre e che non è mai stato risolto. Quando Giacomo Leopardi arrivò a Napoli nel 1833 per non partirne più, vi morì nel 1837, la città era, come il suo solito, sommersa dall'immondizia. Trasferitosi per qualche tempo a Torre del Greco, per godere di miglior aria e anche perché lì non c'era il colera che infieriva sulla capitale, vi scrisse una poesia, l'ultima, intitolata La ginestra o Il fiore del deserto. I versi 49-51 suonano così. Dipinte in queste rive, son dell'umana gente, le magnifiche sorti e progressive. Si tratta di versi ironici indirizzati al cugino Terenzio Mamiani, secondo cui il futuro dell'umanità sarebbe stato favoloso. L'ironia di Leopardi sulle parole di Mamiani potrebbe essere la nostra sulle parole del neo sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Libererò la città dai rifiuti entro 5 giorni. sulle magnifiche sorti e progressive di Napoli legate all'immondizia, hanno perso la faccia sindaci, assessori e presidenti, perché sono secoli che Napoli non risolve questo problema, come testimoniavano già i viaggiatori del Grand Tour. Com'è possibile che il sindaco, il quale pur dovrebbe conoscere la storia, gli usi e i costumi della sua città, esca con dichiarazioni come «Napoli sarà d'esempio all'Italia nella gestione dei rifiuti» o «libereremo la città dall'immondizia in 5 giorni»? Due sembrerebbero le spiegazioni. O il sindaco ignora la realtà napoletana, o la conosce benissimo, ed è questo ciò che crediamo noi, ma cerca ancora larghi consensi facendo populismo. Per chi non lo sapesse, il populismo è l'atteggiamento che mira ad accattivarsi il favore popolare mediante proposte demagogiche di facile presa. Ora, il sindaco più populista di Napoli fu Achille Lauro. I napoletani furono solo per un breve periodo di tempo ingannati dai pacchi di pasta distribuiti da O Comandante come un grande di Spagna, dalla ripavimentazione di certe strade, dall'illuminazione delle fontane, eccetera, e perfino dall'acquisto di Omar Sivori. Capirono chi fosse veramente Lauro quando constatarono che non c'era stato e mai ci sarebbe stato un miglioramento sociale concreto delle famiglie povere. Oggi ben pochi rimpiangono quegli anni. Luigi De Magistris, che io sappia, non ha mai tirato in ballo Achille Lauro. Non lo ha fatto perché non gli conveniva farlo, essendo acclarato oggi che il laurismo fu l'estremo rigurgito del più basso spagnolismo. Ma è stato accostato spesso a Masaniello, l'eroe popolare che diede vita a una rivolta contro gli spagnoli. Lo slogan usato da De Magistris in campagna elettorale è stato «Ammascassà», cioè «dobbiamo rompere tutto», come appunto fece Masaniello nel 1647, prendendo d'assedio le caserme. Però, mentre Masaniello qualche promessa fatta al popolo riuscì a mantenerla, De Magistris finora ha parlato a vanvera, promettendo in pratica l'impossibile, cioè togliere i rifiuti dalle strade di Napoli in meno di una settimana. Al contrario, c'è da registrare un aumento dei rifiuti. Ma c'è di più. Pur avendo dato qualcosa al popolo, quando Masaniello cominciò a dar segni di pazzia e a non mantenere le promesse date, un gruppo di rivoltosi lo fucilò nel convento della Madonna del Carmine, aveva solo 27 anni, gli tagliò la testa e la buttò nelle chiaviche. Naturalmente nessuno di noi si augura per De Magistris una simile fine, ma il consiglio è di far rientrare le sue spacconate, le sue rodomontate, le sue demagistrate, potremmo dire da oggi in poi, perché la gente è esasperata e con gli esasperati si ragiona poco o niente. Perché poi uscire con certe dichiarazioni è anche offendere l'intelligenza di un popolo. Molto più realisticamente De Magistris avrebbe dovuto dire «Non ho la bacchetta magica, so benissimo che risolvere il problema rifiuti in tempi brevi o brevissimi è pressoché impossibile. Farò del mio meglio per farlo nel più breve tempo possibile. Intanto abbiate pazienza e non fatemi fare la fine di Masaniello. Un'ultima cosa, non dica più il neosindaco che Napoli sarà d'esempio all'Italia nella gestione dei rifiuti. Queste parole suonano come una barzelletta e rischiano di ritorcersi sugli stessi napoletani, cui tutta Italia potrà fare il verso, e forse già lo fa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marcello D'Orta, «Caro sindaco, qui è meglio non fare il Masaniello», dal Giornale del 21 giugno.